La Calabria, come veniva ricordato, ha una esperienza da questo punto di vista direi storica, e la collaborazione che abbiamo instaurato con il presidente della Commissione Antimafia della Regione Calabria, il collega Salvatore Magarò, va in questa logica, cioè uno scambio di informazioni, di esperienze da un punto di vista squisitamente legislativa, di quale azione la Regione Lombardia può mettere in campo nel rispetto evidentemente le proprie competenze. Certo. Ecco, Zuffada, mi tocca una curiosità, ma quando lei ha, come dire, probabilmente caldeggiato questo incontro, che mi auguro non essere stato un incontro puramente di cortesia, ma concreto, i suoi colleghi come l'hanno guardato? Come un marziano, e hanno guardato Magarò come un marziano, oppure si sono resi conto che effettivamente o vi muovete o vi date una mossa, oppure non soltanto l'economia, ma anche il Consiglio regionale magari un domani potrà avere delle persone votate consapevolmente o inconsapevolmente con i voti delle cosche lombarde e calabresi? Ma innanzitutto concretamente c'è stato uno scambio dei progetti di legge che sono stati presentati per la legalità, la lotta all'illegalità, per l'azione antimafiosa e per l'azione per esempio di contrasto all'usura, che è una diretta conseguenza del fatto che alcuni operatori sono costretti a rivolgersi poi agli usurai per alcuni ritardi, ad esempio, che veniva fatti rilevare dall'amico Magarò, per esempio in Calabria, nei pagamenti che le amministrazioni pubbliche fanno nei confronti degli imprenditori che vincono appalti pubblici. Bene, questa è una cosa concreta, finalmente ci ha detto una cosa concreta. Esattamente. Ecco, questa è una cosa molto concreta. Noi portavamo l'esperienza della Regione Lombardia, che ormai da diversi anni ha instaurato un tempo limite per i pagamenti della Regione piuttosto che delle società partecipate a chi lavora per la Regione o per le società partecipate, che era di 90 giorni e che la prossima finanziaria porterà a 60 giorni.